Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, riprendiamo anche da dove ci eravamo lasciati venerdì, ahimè, per quello che riguarda la Grecia. In alto mare di nuovo le trattative, è intervenuto anche oggi il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi in audizione al Parlamento Europeo davanti alla Commissione Economico-Finanziaria del Parlamento. Tra poco lo ascolteremo, ne parleremo anche nella seconda ora. Ha detto serve un accordo forte, la palla è nel campo della Grecia, la BCE sta facendo quanto in suo potere per il successo dell'intesa. E poi ha aggiunto, attenzione, la situazione economica in Grecia è drammatica, la responsabilità non è di altri paesi dell'area euro. E poi la frase a mio avviso più forte, al momento non possiamo fare previsioni o immaginare le conseguenze di lungo termine nel caso di un'uscita della Grecia dall'area euro. Entreremo in terra ignota, entreremo in un terreno ignoto, perché se anche dopo le ultime riforme del sistema finanziario ci sono strumenti per gestire la situazione nel breve termine, nel medio-lungo periodo quali sarebbero le conseguenze per l'Unione Europea? Non siamo in grado di prevederlo. Questa frase e queste valutazioni hanno spaventato non poco mercati già deboli. Adesso qualcosa ha recuperato. Milano, che era arrivata a perdere più del 2%, perde l'1,80, Parigi l'1,30, Francoforte l'1,5, Londra meno 0,95%, Londra non è nell'euro però, il Dow Jones meno 0,50%, l'euro è a quota 1,1240, quindi poco mosso. Chiaramente penalizzate oggi tutte le banche, perché quando le tensioni sono sulla Grecia ne risentono soprattutto le banche, non per la loro esposizione sulla Grecia, visto che ormai è inesistente o bassissima, ma per il ragionamento che si fa sui titoli di Stato e sul possibile andamento dello spread. E quindi un'Europa, un'area euro che non riuscisse a risolvere, o meglio risolvesse nella maniera peggiore possibile il caso greco, vedrebbe penalizzati gli spread di tanti paesi considerati più a rischio, tra cui l'Italia, e quindi si penalizzano le banche che hanno in pancia molti titoli di Stato dei singoli paesi. Nel caso specifico le banche italiane, UbiBanca meno 4,30, Banco Popolare meno 4, Monte dei Paschi meno 3,60, Unicredit meno 3,20, Intesa San Paolo meno 2,60, Pop Milano meno 2,30, Pop Emilia Romagna meno 2%. Segnalo che oggi è debole anche Finmeccanica, meno 3,20%, ma qui c'entra chiaramente poco l'euro e la Grecia. ST Microelectronics meno 2,60%, sale invece TOZ dello 0,60%, UX leggermente positiva più 0,16%. Qui c'è un dato che riguarda la società Net-a-Porter, la società con cui si fonderà entro settembre, che ha annunciato un aumento dei ricavi superiore a 20%. Il lusso in controtendenza, sì, meno 0,30 Moncler, infatti Luxottica meno 1,20, Campari meno 0,15, TOZ addirittura positiva. C'è un ragionamento, a mio avviso molto così teorico, però, che il lusso possa comunque essere un bene rifugio nel caso di una situazione che dovesse precipitare o peggiorare ulteriormente sulla Grecia. Parleremo di questo, parleremo anche del risultato elettorale. In realtà, più che del risultato elettorale, parleremo delle prossime appuntamenti di un governo che anche per via del risultato elettorale, ma soprattutto per via delle tensioni internazionali. È chiaro che l'oggetto delle i migranti e quello che è successo con la frontiera francese non è oggetto di questo programma. Quello che però è chiaro a tutti è che il fronte si sta spostando sempre più sul lato europeo, perché parte della conseguenza elettorale è anche dovuta al tema migranti, perché quello che è avvenuto e che sta avvenendo con l'Ucraina è un tema di carattere europeo, con un danno che l'Italia paga in maniera fortissima, e perché da questo punto di vista la Grecia rappresenta un tema europeo. Quindi da più parti oggi si legge, in tema di migranti, in tema di Grecia, in tema di Ucraina, dov'è e cosa fa Francesca Mogherini, Lady Pesce, quindi quella che dovrebbe essere il ministro degli esteri a livello europeo. La sua voce si fa sentire, fa notare molti osservatori, molto poco. Sono argomenti intrecciati anche di carattere economico, chiaramente, non solo. 349-238-6666 per i vostri sms, la parte poi di Focus Economia sul sito di Radio 24. E allora sentiamo Mario Draghi proprio sul suo intervento, una parte del suo intervento, ripeto, poi lo approfondiremo, anche perché ci sono varie reazioni. Il presidente della Bundesbank Weidmann ha detto: per la Grecia il tempo sta finendo, stanno aumentando le possibilità che non si raggiunga un accordo. Addirittura il capo dell'istituto economico tedesco IFO, Hans Werner Sinn, ha detto il ritorno alla dracma per Atene è la soluzione migliore, quella più sostenibile dal punto di vista sociale. Oddio, teniamole presenti queste dichiarazioni, perché è facile fare i teorici della Germania. Mi sembra che Draghi la pensi in maniera diametralmente opposta, cioè che nel breve si regge, nel medio lungo non si sa dove si va a finire. Comunque, su questo dicevo, la palla, dice Mario Draghi, è totalmente nel campo della Grecia. The Eurosystem has provided support to allow Greek banks to continue financing the economy. L'Eurosystem ha fornito tutto il supporto per far sì che le banche greche continuassero a finanziare l'economia. Attualmente la liquidità fornita dalla banca centrale alle banche greche ammonta a circa 118 miliardi di euro, più del doppio del totale a fine 2014. L'attuale liquidità rappresenta circa il 66% del PIL greco, il livello più alto in tutta la zona euro. La scorsa settimana la Banca Centrale non ha avuto nulla da obiettare a un ulteriore aumento del tetto dell'ELA. La liquidità continuerà a essere fornita finché le banche greche saranno solventi e avranno sufficienti collaterali. È necessario un accordo forte e credibile con la Grecia. E ne abbiamo bisogno presto. Sto parlando di un accordo che produca crescita, giustizia sociale, ma anche sostenibilità di bilancio, che assicuri la competitività e che affronti gli elementi di squilibrio finanziario. Posso garantirvi che la Banca Centrale sta facendo tutto quello che può perché si arrivi a un risultato di successo. Un accordo forte e credibile con la Grecia è necessario non solo nell'interesse della Grecia, ma di tutta la zona euro. Ora tutti gli attori devono correre l'ultimo miglio, ma la palla è nel campo della Grecia perché faccia i passi necessari. The ball lies squarely in the camp of the Greek government to take the necessary steps. Uno dei passaggi dell'intervento di Mario Draghi. Tra l'altro devo dire che oggi c'è stata di nuovo una accelerazione di queste tensioni, perché come già sapete è fallito il negoziato di Bruxelles sulla crisi greca, posizioni tra Atene e Bruxelles molto distanti. Tra l'altro l'accordo richiede scelte dure da entrambi le parti, lo ha detto lo stesso Fondo Monetario Internazionale. Il ministro delle finanze greco Varoufakis, in un'intervista alla Bild, ha detto: io escludo una Grexit come soluzione ragionevole, cioè l'uscita della Grecia dall'euro, ma nessuno può escludere tutto, io non posso escludere che una cometa impatti la Terra, quindi sarebbe irragionevole, ma non posso escluderla. Non sono un profeta, ha aggiunto Varoufakis, l'accordo potrebbe arrivare in una notte, ma Angela Merkel deve starci. E anche il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si è detto deluso dopo l'ultimo tentativo fatto per trovare una soluzione e quindi del deluso del fallimento del negoziato. La Commissione resta pronta a impegnarsi 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 per altri negoziati. L'Unione Europea sottolinea che da Atene sono state fornite informazioni fuorvianti, in particolare i dati della proposta alla Grecia sui 5 pilastri, indicando tra l'altro gli obiettivi di avanzo primario sostanzialmente ridotto dal 3% all'1%. Poi fonti europee hanno definito dilettantesco l'atteggiamento dei greci, del comportamento negoziale della delegazione greca nel fine settimana. Sono fonti della Commissione europea, non so quali fossero le loro intenzioni, ma l'atteggiamento è stato molto dilettantesco. Atene ha proposto, non ha mai presentato una vera proposta complessiva alle tre istituzioni, quindi a Bruxelles, alla BCE e al Fondo Monetario, ma è arrivata sabato a Bruxelles con una tabella Excel contenente solo cifre generiche, per di più le stesse già respinte il lunedì scorso dal commissario europeo Pierre Moscovici. Ecco il motivo per cui queste fonti europee definiscono dilettantesco l'atteggiamento greco. Senza un accordo il 1 luglio, la Grecia sarebbe in una situazione di emergenza, lo ha chiarito il commissario europeo Oettinger, che ha aggiunto: noi siamo impegnati a negoziare. Berlino ha chiarito: noi vogliamo che la Grecia resti nell'area euro, però poi insomma tutto è ancora in alto mare appeso. Che ne dica Varoufakis, che dice che stasera potrebbe arrivare l'accordo. Alla situazione greca, questo avvitarsi continuo della situazione greca, sono dedicati 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Vi sarete stancati di sentir parlare del caso Grecia? Purtroppo l'estenuante trattativa tra Atene e l'Europa continua a condizionare l'umore dei mercati e diventa prioritaria anche per la soluzione di grandi temi europei. Non fosse altro perché è importante che i partner della UE ritrovino un po' dello spirito dei padri fondatori per arrivare a soluzioni lungimiranti anche su altri versanti, primo dei quali è il caldissimo tema dell'immigrazione, ma non ultimo anche quello di un serio piano per il rilancio degli investimenti. Oggi le borse hanno mostrato nervosismo e l'instinto di Atene continua a perdere colpi, con un altro calo del 5%. Piazza Affari e le altre borse europee cedono tra l'1 e il 2%. Insomma, più si fa defatigante il negoziato greco, più gli investitori trovano pretesti per recuperare la cosiddetta avversione al rischio e rifugiarsi nei titoli di qualità, come il classico Bund tedesco, alleggerendo quindi le posizioni sui bond dei paesi periferici, come sono ad esempio l'Italia e la Spagna. C'è però una novità importante nell'andamento degli spread di oggi. Purtroppo la differenza tra BTP decennali e Bund tedeschi continua a salire vistosamente ed è, come noto, un brutto segnale, ma l'Italia sale meno della Spagna, che invece fino a qualche tempo fa i mercati premiavano più di noi. È probabile che si faccia sentire il rischio Podemos delle ultime consultazioni elettorali e quell'incertezza politica che è stata flagello a lungo per l'Italia, ora si è trasferita dalle parti di Madrid. E il condizionamento che i partiti populisti e anti-euro suscitano sui mercati comincia a essere davvero misurabile e deve far suonare un campanello d'allarme, perché la speculazione è pronta ad azzannare i paesi più deboli dell'area euro. Comunque uno spread per l'Italia a quota 153, salito del 7% in un solo giorno, deve far riflettere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Alberto Orioli, hanno ragione anche gli ascoltatori che dicono: basta, non se ne può più di questa. Non è una litania, è una tragedia greca che non potrà mai diventare una farsa, lo dico a chi scrive, perché purtroppo resterà, o la risolviamo, resterà una tragedia per i greci ma anche per il resto d'Europa. È chiaro in questo momento, ma ne parleremo fra poco, che il governo ha sul fronte greco, sul fronte ucraino, sul fronte migranti un problema di peso europeo, e non lo dico ma lo cito, faccio notare anche quanto ricordato dal presidente di Confindustria ieri, no? E cioè, attenzione, insomma, c'è una difficoltà dell'Italia a far pesare la sua voce a livello europeo. E, è inspiegabile, ha detto Squinzi, che Olanda abbia più voce in capitolo di noi. Capisco la Germania, ma ho difficoltà a capire perché quando c'è la trattativa, per esempio, nei vertici internazionali sulla Grecia, ho difficoltà a capire, conoscendo l'andamento dei numeri della Francia in questo momento. È demoralizzante vedere che quando fanno i vertici non ci invitano più, ha continuato il presidente Confindustria due giorni fa, commentando l'ultimo vertice Merkel-Hollande. Allora, oggi è intervenuto anche il ministro Padoan, ma non sulla vicenda greca, sul debito italiano. Devo dire che Padoan questa volta ha ragione, perché si è seccato, perché gli hanno fatto una domanda sull'aumento del debito. È misinformazione. Ha ragione, adesso sentiamo questo passaggio, perché in realtà quello che è importante non è quanto è il valore nominale del debito in numeri, in euro, ma è il rapporto rispetto al PIL. Per cui è la Gran Bretagna non è il valore complessivo, ma è il fatto che, per esempio, la Gran Bretagna abbia un debito sul PIL che è basso, bassissimo, al 60%, la Francia ce l'ha al 90-95%. Quello è quello che conta. Quindi dire il debito è aumentato anche quest'anno, oggettivamente, è cattiva informazione. Personalmente non l'abbiamo mai detto. Comunque, sentiamo Padoan su questo. Posso dire una cosa, visto questa cosa della greca e del debito, è una cosa veramente noiosa, perché per definizione il debito aumenta. Quello che i mezzi di stampa, non so se mi spiego, devono dire è che bisogna vedere se quell'aumento assoluto del debito è maggiore o minore dell'aumento assoluto del PIL nominale. Solo così si può dire se sto. Quindi è chiaro che aumenta se, non è una notizia. Vedo che qualcuno scrive: lei ha sempre difeso i greci che sono degli imbroglioni. No, guardi, è facile fargli slogan. Abbiamo sempre criticato la Grecia per come ha truccato i conti, per come ha gestito i conti pubblici, per il tipo di evasione fiscale misto ad altissime garanzie, stipendi e rendite di posizione del pubblico impiego. Quello che ci siamo permessi di dire da 5 anni è che l'idea della punizione alla Grecia, per dare l'esempio, e l'idea che la Grecia potesse in quel modo ripagare il debito era una follia. E infatti dopo 5 anni siamo ancora a occuparci di un paese che rappresenta meno del 2% del PIL europeo, grazie alla linea dura e pura della Germania. Si poteva essere, il problema non è scusare o giustificare i greci, tu li puoi punire ma non li devi umiliare, e soprattutto li punisci in maniera intelligente, nel senso, dandogli la possibilità di ripagare questo debito. Quello che io noto è che per ora le banche sono tutte uscite, certo che ci hanno perso le ricatte, è pesato anche per loro, e tutto il debito greco adesso è verso i paesi dell'area euro. Se questo è un gran risultato, saranno contente le banche tedesche e francesi, che erano molto esposte con la Grecia, meno i cittadini, compresi quelli francesi e tedeschi, ma anche quelli italiani. E poi lei ritiene che invece la gestione del caso greco sia stata una gestione eccellente, ci sono i fatti a provarlo. 5 anni per essere ancora in sto pantano per un paese che rappresenta il PIL, diciamo, di una regione media dell'area euro. Restiamo sui temi di casa nostra, perché oggi si è tenuta l'assemblea straordinaria di Assolombarda, che è la più importante associazione territoriale di Confindustria, come rappresentanza di aziende, rappresenta chiaramente Milano. Il presidente Gianfelice Rocca, in conferenza stampa, ha ricordato come il governo debba mettere le aziende al centro, criticandolo o sottolineando che invece ora è più occupato a fare leggi. Abbiamo dei chiari segnali di fiducia, ma dobbiamo farli diventare un fatto stabile. E questo richiede due grandi passaggi. Una politica pro-impresa, dove l'impresa sia al centro del pensiero della politica. Oggi la politica è più concentrata nel far leggi che nel pensare di mettere l'impresa al centro in ogni suo atto e anche in ogni sua relazione. E questo è un primo tema. E il secondo grande tema, che è tipicamente politico, è che secondo me è la partnership pubblico-privato. Cioè dobbiamo poter collaborare in maniera trasparente, ma deve essere una collaborazione sincera, non una collaborazione timorosa, preoccupata, ma deve essere un modo insieme. i debiti incagliati delle banche sono prevalentemente verso le medie aziende, non verso le piccole aziende. Perché, e questo in tutto il mondo, i crediti dati, i finanziamenti alle piccole imprese, siccome c'è un enorme elemento reputazionale, sono elementi spesso locali. Quindi l'imprenditore che prende spesso si sente personalmente impegnato alla restituzione. Il risultato è che quando c'era questo tipo di meccanismo, che le banche oggi non possono accettare dal punto di vista degli schemi di Basilea, la risposta europea è che le società italiane sono poco capitalizzate, devono capitalizzarsi molto di più. Ma non è così facile e semplice fare una cosa del genere in un attimo. C'è un transitorio su cui secondo me noi dobbiamo ragionare profondamente. Se non si ragiona su questo transitorio, secondo me il tema delle piccole imprese che hanno sofferto così, nella crescita, nel rifinanziamento e circolante di tutto questo, rappresenterà una sabbia nel cilindro della crescita italiana. Diciamo la dichiarazione che riguarda soprattutto Milano, o Milano e l'area dell'Intrand riescono a crescere più del 2% o il paese non uscirà dalle secche in cui è. Voi sapete che il paese rispetto al picco precedente è sotto del 10%, la Lombardia è sotto del 4%. Quindi la Lombardia nella crisi ha avuto più resistenza, però è sotto. Quindi io sono convinto che stanno emergendo energie, forze, capacità a Milano e ci sono delle condizioni di competitività notevolissime. Quindi Milano deve farcela crescere in questi termini, può farcela, se facciamo le cose giuste ce la farà e così facendo trascina tutto il paese come ha sempre fatto. Ma non è solo Milano, è la grande area milanese. Qui a 60 km c'è il 25% del prodotto nazionale, c'è il 25% dell'export. Se questi 60 km quadrati faranno le cose giuste, allora il paese se ne avvantaggerà in ogni sua parte. O questa zona va sopra il 2% o non riusciamo veramente a pensare che il paese esca dalle secche. Così appunto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca. Ci permettiamo di aggiungere che per quello che riguarda il paese, lo diciamo da mesi, non ci si può accontentare di uno 0,6-0,7 quest'anno e di un 1,5-1,6 l'anno prossimo, perché le condizioni esterne di contesto, al di là dell'Ucraina e della Russia, scusatemi, sono le migliori possibili. Euro ancora a quota 1,12 con un petrolio che viaggia intorno ai 59-60 dollari al barile, tassi di interesse a zero, non oggi il petrolio è a 59. Sono condizioni che non dureranno per sempre. Prima o poi il petrolio tornerà a crescere, ti beccherai un po' di inflazione importata, i tassi Draghi rimarranno bassi, per carità, l'euro vediamo, però attenzione, la spinta deve arrivare tra adesso e l'anno prossimo, perché poi nel 2017 vediamo come saranno le condizioni, vedremo come saranno le condizioni di contesto. Allora, andiamo verso il meteo con un'ultima notizia che i nostri GR hanno già raccontato, i nostri GR 24. La popolazione residente in Italia è sostanzialmente arrivata alla crescita zero. Non capitava, e la cosa deve fare impressione, dal biennio 1917-1918, quando milioni di uomini italiani erano impegnati durante la Prima Guerra Mondiale, e tra l'altro di cui si ricordano, appunto, si ricorda lo scoppio cent'anni dall'inizio, però non capitava un picco del, un saldo negativo così non capitava dal 1917-1918. Sono stati registrati nel 2014 12.000 nati in meno rispetto al 2013. Il saldo è negativo di quasi 100.000 unità. Tra l'altro sempre l'Istat ci fa sapere che arrivano meno stranieri. So che con quello che sta capitando in questi giorni dice l'Istat è impazzito. Chiaramente l'Istat va a vedere gli iscritti in anagrafe provenienti dall'estero. Nel 2014 sono stati 280.000, di cui il 90% stranieri. Gli italiani che rientrano dopo un periodo di immigrazione all'estero sono poco meno di 30.000, al contrario hanno lasciato il nostro paese 136.000 persone, di cui 90.000 italiani. Rispetto agli anni precedenti gli immigrati sono diminuiti e aumentano gli emigrati. Il saldo tra flussi di entrate e in uscita è di 140.000 persone. anche di questo parleremo dopo il meteo, la pubblicità, chiusura di Milano, e invece di nuovo uno strappo in negativo, meno 2,40%. Meteo. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Minuti, c'è solo l'imbarazzo della scelta per il sogno di oggi. Un'Europa, possiamo dare un titolo complessivo, un'Europa che non sia solo una parola vuota, perché quando uno guarda quello che sta capitando con la Grecia, quello che sta capitando con gli sbarchi, Schengen, la Francia che dice no, i migranti dovete tenervi voi, tenetevi i centri d'accoglienza, e oggettivamente anche la posizione in ordine sparso sull'Ucraina e sulla vicenda russa, per cui tutti d'accordo, poi le conseguenze economiche le paga l'Italia in percentuali più alte rispetto ad altri paesi. Insomma, il sogno è facile, cioè avere un'Europa che non solo si definisca tale, ma si comporti come tale. Poi c'è un problema che voi direte, ma è più politica estera o politica economica? Tutte e due le cose, forse. O giro la domanda all'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Perché uno potrebbe dire, cosa c'entra l'ulteriore ingarbugliarsi della crisi greca? Quello che è successo e quello che abbiamo sentito dai vari rappresentanti delle categorie produttive sul peso che sta pagando il nostro export nella vicenda russo-ucraina. Lo scontro e l'idea che l'Italia venga lasciata sostanzialmente da sola nella vicenda migranti, guardate la reazione francese, unisco anche, ma come elemento di contorno, le dichiarazioni dello stesso presidente Confindustria, che dice, insomma, due giorni fa Squinzi ha detto, insomma, trovo umiliante che non veniamo più invitati nei vertici internazionali. Capisco la Germania, ha aggiunto Squinzi, però mi dovete spiegare, questo lo traduco un po' io, ma è demoralizzante vedere che quando fanno i vertici non ci invitano più. E è inspiegabile che Hollande abbia più voci in capitolo di noi nei vertici internazionali sulla Grecia. Ho difficoltà a capirlo, ha aggiunto Squinzi, soprattutto conoscendo l'andamento e i numeri della Francia in questo momento. Allora, si tengono assieme questi 4-5 elementi oppure sono assolutamente estranei, eterogenei l'uno all'altro? No, apparentemente ovviamente potrebbe sembrare che siano totalmente diversi l'uno dall'altro, in realtà hanno dei punti di contatto. I punti di contatto sono una situazione, diciamo, internazionale complessivamente molto difficile, la crisi greca, la vicenda dei migranti, la vicenda dell'Ucraina, le tensioni nell'est europeo tra USA e Russia, e diciamo questa difficoltà che di cui parlavi tu prima in generale dell'Europa, che non riesce a fare l'Europa, e quindi siamo ridotti nelle condizioni in cui ci troviamo, e quindi non meraviglia, diciamo, che ci sia una situazione per la quale si ripete la storia, dove l'Italia non viene invitata in alcuni vertici importanti a livello internazionale. E sappiamo che questo accadeva anche prima, sta tornando ad accadere oggi. È vero anche, bisogna dirlo, che resiste, diciamo, nel tempo un asse storico tra la Francia, certo, e la Germania, quindi questo teniamolo sempre conto. No, ma è verissimo, nessuno mette in discussione i rapporti però, privilegiati, però, però scusami Guido, certo, però abbiamo anche un cosiddetto ministro degli esteri, Lady Pesch. Il governo molto si è battuto perché fosse quello il nome italiano, noi molto modestamente diciamo, ma perché, visto che abbiamo avuto un commissario all'industria come Tajani, che comunque bene aveva fatto le nostre piccole e medie imprese, pensate solo all'accordo per i crediti che vantavano nei confronti della pubblica amministrazione, perché non puntare su un commissario all'agricoltura? È vero che la PAC l'hai già fatta, ma comunque più operativo. Si disse, lo dicevi in tempi non sospetti, attenzione che da quello che abbiamo visto Lady Ashton contava poco, come il due di coppe, dicono a Venezia, visto che oggi Venezia viene citata da tutti. E a noi sembra che la Mogherini conti ancora di meno, e comunque non capiamo perché non ci possa essere anche un modo dell'Italia di imporsi in Europa. Cioè abbiamo una carta come quella dei migranti, o ce la dobbiamo, che è un conto economico, ma è per il governo e anche un danno politico. Guido, non giriamoci attorno, parte di questo risultato dei doppio turno, diciamo, delle regionali, dovuto anche al tema dell'immigrazione. Beh, direi soprattutto, in particolare questo doppio turno. Se andiamo a leggere i dati, vediamo che rispetto ai risultati del primo turno c'è stato un crollo diciamo rovinoso da parte del Partito Democratico, e questo è dato in coincidenza con lo sviluppo della questione, diciamo, dei migranti, le difficoltà d'Europa e i problemi che noi anche su questo terreno ci portiamo dietro, perché l'Europa si dimostra imbelle, impotente, non solidale, e quindi conferma una Scusami se ti interrompo, quando non le conviene, perché sulla Grecia la faccia feroce l'ha fatta con i risultati che adesso vediamo. Quando conviene alla Germania e ai paesi satelliti fa la faccia feroce, quando invece non conviene, perché capisco benissimo che né i francesi, né i tedeschi, né gli olandesi vogliono i migranti che sbarcano sulle coste italiane, lì l'Europa si dissolve. Insomma, è un, diciamo, è la classica figura, diciamo, del forte con i deboli e debole con i forti, da questo punto di vista. Ma tu politicamente ritieni che noi ci siamo messi in una posizione di debolezza? Perché voglio dire una cosa, poi diranno perché voi siete la radio che ha come azionista Confindustria, non me ne frega nulla, ma Squinzi ha ragione nel dire una cosa. Capisco la Germania, ma la Francia non è che abbia sti numeri da vantare, a dire deve fare molte riforme che non abbiamo già fatto. Ha un deficit PIL che è messo ben peggio del nostro, e infatti ha ottenuto la deroga perché ha un debito meglio del nostro, ma il deficit PIL è ampiamente sopra il 3%. Cioè non è che, allora, se la regola è i paesi virtuosi, quelli che fanno i compiti a casa, quelli che fanno le riforme, hanno voce in capitolo, ha ragione Squinzi a dire: ma perché invitate la Francia e non l'Italia? Questo è un punto di evidenza oggettiva che noi abbiamo di fronte, e c'è stato un momento in cui appena finito il semestre di presidenza italiana in Europa, c'è stato un momento in cui l'Italia, diciamo, ha riscosso un buon credito, nel senso che sui negoziati sulla flessibilità, sui temi economici è riuscita, diciamo, anche a far passare qualcosa in termini di riforma, di apertura dell'Europa a una politica diversa da quella dell'austerity che avevamo conosciuto, e poi però tutto si è di nuovo arenato, con le conseguenze che abbiamo sotto gli occhi. Quindi siamo tornati a essere, diciamo, degli spettatori nelle grandi questioni internazionali. E qui volevo arrivare. Allora, dopo il traffico ti chiederò un'ultima cosa, cioè il governo ha fatto alcune riforme, le ha fatte, le abbiamo raccontate, uno può pensare a come vuole sul Jobs Act, ma quella è una riforma importante che piace a chi deve dare lavoro. Abbiamo intervistato decine di piccole imprese, in queste piccolissime imprese, secondo i sindacati invece precarizza il lavoro, va bene, secondo noi meglio un tempo indeterminato a tutele crescenti che i CocoPro, le parte IVA e i contratti a progetto di prima. Detto questo, quella riforma va data atto al governo. Vorrei capire però che cosa capiterà delle altre riforme alla luce del nuovo equilibrio fragilità del governo, perché abbiamo la pubblica amministrazione che ancora attende. Sulla lotta all'evasione, i dati che sono usciti nel fine settimana ti dicono che questo paese continua ad aumentare il divario tra chi le tasse le paga e chi non le paga. E la riforma della pubblica amministrazione significa anche controlli dirigenziali. Anche qui nel fine settimana abbiamo scoperto che aumentano le pensioni di invalidità, altro che diminuire in questi anni. La sensazione che abbiamo è che il governo si sia molto perso, o abbia perso del tempo, o abbia perso, insomma, un po' di slancio nell'azione, anche e soprattutto per questa riforma elettorale su cui siamo andati dietro per dei mesi interi, dimenticando che fuori il mondo accelerava su altre questioni. Vorrei la tua opinione dopo il traffico, e vorrei anche sapere che cosa potrebbe cambiare alla luce delle novità sulle riforme urgenti per l'economia. Burocrazia e pubblica amministrazione sono le due riforme che il mondo delle imprese attende con maggior forza. Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora, Guido Gentili, come cambia questa fragilità del governo i prossimi appuntamenti e come dovrebbe cambiare il passo del governo sia sul fronte europeo, dove è palese, lo dico con massimo rispetto, il silenzio dell'Italia. Renzi ha fatto un'intervista l'altra sabato, ha detto: ma abbiamo un piano B. Ho capito, ma piano B facciamolo vedere qual è: dare il foglio di libera circolazione, alzare la voce, ricattare l'Europa. Qui non è più possibile gestire una situazione in cui pigliamo schiaffi sui migranti, sulla Grecia non possiamo aprire bocca e diciamo ci siamo accodati a una soluzione tutta tedesca, però ci bacchettano ogni volta sul deficit se si avvicina al 3%, per cui neanche hai ottenuto sì un po' di margine se sei virtuoso. E obiettivamente l'Italia, tra i paesi che hanno fatto gli sforzi, questi sforzi li ha fatti, non li avrà fatti tutti, ma li ha fatti, Guido. Eh sì, questa è la situazione. Ci sono in pista riforme importanti, c'è quella della pubblica amministrazione, c'è il problema della scuola e sono tutti due temi politicamente molto sensibili su cui secondo me incideranno questi negativi risultati per Renzi e per il PD nelle tornate che ci sono state regionali e adesso in queste comunali soprattutto. Quindi sicuramente le difficoltà da questo punto di vista per Renzi anche nella mediazione interna al partito aumentano e non diminuiscono, e quindi diciamo sale la possibilità di compromessi diciamo al ribasso sulle varie soluzioni sui temi appunto della scuola, della pubblica amministrazione e direi anche sui temi, stiamo attenti ai temi fiscali, perché così ci portiamo avanti in vista della predisposizione della legge di stabilità. Vedevo oggi le dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan che faceva riferimento alla spending review che è stata tra l'altro poi dimenticata ma che dovrebbe tornare in pista a breve, speriamo, dicendo sì, che questo servirà per abbattere le tasse, così dice non aumentano le clausole di salvaguardia, non scattano le clausole di salvaguardia fiscali. Ecco, quello bisogna essere subito chiaro, cioè non è che in questo modo vengono abbattute le tasse, si evita solo eventualmente che un aumento delle tasse, cioè che non aumenti l'IVA. Però ecco, diciamocela tutta, io ho due minuti scarsi, Guido, senza voler fare, ma qui non c'è un problema anche, lasciando stare il ministro Padoan che ha un grosso prestigio internazionale, ma non c'è un grosso problema anche della squadra di governo, perché il problema è della Mogherini, ma è anche forse il ministro degli esteri Gentiloni, cioè l'Italia non riesce, perché la posizione internazionale è così importante? Perché forse tu puoi riconquistare un po' di opinione pubblica, di consenso, se dimostri che hai un tuo peso in Europa, per cui questa Europa non è solo quella che ti impedisce di fare investimenti, ti blocca ogni spesa, chiede riforme, ma è anche quella in cui tu conti qualcosa. Se no uno dice vabbè, ma sai che c'è, allora c'è Podemos in Spagna, sono tutti principi diversi, Siriza in Grecia, e da noi la Lega ha guadagnato a man bassa. E questa è la situazione. Per quanto riguarda la compagine governativa, c'è da dire che Renzi fin dall'inizio sappiamo che ha giocato la carta dell'uomo solo al comando e quindi del one man show diciamo, nella politica interna e internazionali, e quindi questo diciamo nel momento in cui le questioni si complicano diventa tutto più difficile, il quadro internazionale è molto più complesso, è chiaro diciamo che da questo punto di vista si evidenzia diciamo questa problematica diciamo della solidità e della autorevolezza in generale della posizione italiana nelle sedi internazionali, e questo mi sembra un dato di fatto oggettivo. Sì, che si lega, come tu ricordavi, anche al fronte interno, nel senso che il fronte interno poi l'opinione pubblica ha la sensazione che noi diciamo, siamo più vassalli che altro, e poi vota di conseguenza, poi hai difficoltà a quel punto, ecco il principio di caduta, anche a portare a casa alcune riforme. Grazie Guido Gentili. Dopo il GR24 commenteremo invece la giornata di borsa tutta preoccupata e negativa sulla vicenda greca, meno 2,40% nel finale, con le banche che hanno cali tra il 2,5% e il 4,80%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. in collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. State ascoltando un programma offerto da... Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Otto minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non posso, vedo molti messaggi, tornare sul tema della seconda ora del programma, e quindi insomma la situazione politica sia sul fronte delle riforme di politica economica interna che su quelle di carattere europeo. Resta il fatto che, vedo che molti scrivono su questo, c'è indubbiamente una debolezza dell'azione di governo sul fronte internazionale. Non è possibile prendere schiaffi dalla Francia, non essere invitati quando si parla di Grecia e fanno la cosa a due Francia e Germania, però essere sempre ripresi sull'importanza delle riforme e dei compiti a casa, pagare senza mai dire nulla le conseguenze di un embargo, diciamo, e controembargo con la Russia. Certo che siamo parte dell'Unione Europea e l'embargo però è guidato dagli Stati Uniti. Allora l'Italia, cioè, non è che puoi solo dire sì a tutto, tutte le bastonate che ti arrivano e poi non avere mai una voce in capitolo su questa attenzione, perché sono temi che toccavamo ben prima che la crisi greca si avviluppasse ulteriormente o che ci fosse il problema dei migranti. Però insomma, la sensazione complessiva che si riceve è questa, con una debolezza poi che viene anche tradotta in parte anche nel voto delle amministrative, perché è inutile girarci attorno, e che poi va a rendere più fragile il governo anche sulle riforme possibili. Per le riforme economiche, certo che le riforme della burocrazia e della pubblica amministrazione sono riforme di carattere economico, lo dico a chi scrive. Comunque la borsa oggi reagisce male al nuovo nulla di fatto, al nuovo allontanarsi nelle posizioni tra Unione Europea e Grecia. Meno 2,40% Milano, meno 1,75% Parigi, meno 1,90% Francoforte, Londra meno 1,10%, il Dow Jones meno 0,60%, euro quota 1,12%, male tutte le banche perché il ragionamento si fa sugli spread e su chi ha più titoli di Stato in portafoglio. E infatti il nostro spread è salito meno di quello spagnolo, però siamo comunque tornati a 150 punti, nulla di drammatico, è vero, ma è un segnale. UbiBanca meno 4,80, Banco Popolare meno 4,5, Monte dei Paschi meno 4,12, Unicredit meno 3,80, Intesa meno 3,20, come la Pop Milano, Popolare Emilia Romagna meno 2,80. Ciao Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Diciamo, il fronte bancario lo archiviamo con la Grecia, immagino, perché il tema è quello dei titoli di Stato in pancia poi a molte banche. Va un po' meglio oggi il lusso, TOZ più 0,60, se proprio vogliamo vedere, World Duty Free meno 0,20, Campari meno 0,30, Jux meno 0,50, Moncler meno 0,70, Luxottica invece cede l'1,70. Ma addirittura un bene rifugio il lusso? Eh beh, oggi sì, diciamo che poi il listino bene, di... scusatemi, un titolo, titoli rifugio. Beh. Il listino di Milano, come sappiamo, poi è tra virgolette un po' distorto rispetto agli altri, perché le banche, agli altri europei, perché le banche hanno un peso preponderante, e quindi oggi vediamo anche come Milano sia la peggiore di tutte in Europa e perde il 2,4%. Come dicevi tu, diciamo vendite proprio indiscriminate su tutte le banche. Monte dei Paschi è fresca la notizia che abbia coperto l'ennesimo aumento di capitale praticamente interamente. 100%. Al 99%, ma non è contato niente, ha perso oltre il 4%. Come dicevi tu, il lusso viene vissuto un po' come un bene rifugio, Jux poi ha perso soltanto lo 0,5%, e questo è anche da ricondurre ai dati diciamo positivi di Net-a-Porter, che fa lo stesso mestiere di Jux, anzi le due aziende si fonderanno a breve, che ha chiuso il, diciamo, l'esercizio fiscale che si chiudeva il 31 marzo con ricavi in crescita del 22,8%. Quindi delle indicazioni confortanti che secondo gli operatori hanno permesso di salire a tutto il comparto del lusso. Poi insomma c'è Pirelli che fa meno 0,5% o Ansaldo che è sulla parità, ma queste sono aziende sotto OPA e quindi sostanzialmente il prezzo è legato a questo. Insomma. Oggi deboli tutti i settori, comunque il bancario il peggiore, ma segnalo anche Finmeccanica meno 3,88%, ST Microelectronics meno 3%, Autogrill meno 2,80%, A2A meno 2,40. Devo dire che Trallusso non se la cava invece bene, Ferragamo meno 2,32%. E poi invece sul fronte energia segnalo che anche Eni perde l'1,90%, Snam l'1,80%, Enel meno 2,1%. Se andiamo sui migliori e peggiori, la Cassa di risparmio di Genova ha avuto un calo forte anche sui diritti? Sì, sui diritti ha perso mi pare il 12%, il titolo ha perso un altro 5%. Non è un aumento che sta andando particolarmente bene. No. Edes meno 13,3, Vita società editoriale meno 10,90, Classe Editori meno 9,30, Frontoposti Grandi Viaggi più 19,96, Zucchi sul risparmio non convertibili più 7,26, Lucisano Media Group più 4,30 e Poligrafici Editoriali sono più 3,83%, sono i migliori titoli di questa seduta. Non c'è molto altro da aggiungere oggi, ripeto, la giornata è stata completamente spianata, omogeneizzata, dite come volete, dalla vicenda greca, di cui adesso torniamo a occuparci. Ripeto, sono due cose un po' diverse: il ruolo dell'Italia sul fronte internazionale, le ricadute interne delle amministrative, le due cose si tengono, e invece quello che è successo nel fine settimana con la Grecia, e quindi di nuovo fallito il negoziato di Bruxelles, e oggi dichiarazioni anche pesanti, visto che fonti europee danno dei dilettanti ai negoziatori greci. Grazie a Ceo Condina di Radio Cori, il Sole 24 Ore. E allora ascoltiamo di nuovo le parole di Mario Draghi sull'accordo forte che serve, dopo che Draghi stesso ha detto la situazione in Grecia è drammatica, la situazione economica è drammatica, la responsabilità non è di altri paesi europei, e ha ribadito, lo sottolineo per la seconda volta perché a mio avviso è tutto lì il tema, e lo dico anche al simpatico presidente della Bundesbank Weidmann e a un altro che era il direttore dell'IFO, SIN si chiama, è l'istituto di ricerche economiche in Germania, che ha detto "bah, insomma, alla Grecia converrebbe la dracma". Draghi dice impossibile prevedere o immaginare le conseguenze a lungo termine di un'uscita della Grecia dall'area euro. Con una Grexit entreremo in un terreno incognito, anche se dopo le ultime riforme del sistema finanziario ci sono strumenti per gestire la situazione nel breve, e quindi sta parlando ai vari piani LTRO piuttosto che quantitative easing, nel medio e lungo termine, aggiunge Draghi, non possiamo sapere quali sarebbero le conseguenze per l'Unione Europea. Serve un accordo forte, la palla è nel campo greco. The Eurosystem has provided support to allow Greek banks to continue financing the economy. L'Eurosystem ha fornito tutto il supporto per far sì che le banche greche continuassero a finanziare l'economia. Attualmente la liquidità fornita dalla Banca Centrale alle banche greche ammonta a circa 118 miliardi di euro, più del doppio del totale a fine 2014. L'attuale liquidità rappresenta circa il 66% del PIL greco, il livello più alto in tutta la zona euro. La scorsa settimana la Banca Centrale non ha avuto nulla da obiettare a un ulteriore aumento del tetto dell'ELA. La liquidità continuerà a essere fornita finché le banche greche saranno solventi e avranno sufficienti collaterali. È necessario un accordo forte e credibile con la Grecia. E ne abbiamo bisogno presto. Sto parlando di un accordo che produca crescita, giustizia sociale, ma anche sostenibilità di bilancio, che assicuri la competitività e che affronti gli elementi di squilibrio finanziario. Posso garantirvi che la Banca Centrale sta facendo tutto quello che può perché si arrivi a un risultato di successo. Un accordo forte e credibile con la Grecia è necessario non solo nell'interesse della Grecia, ma di tutta la zona euro. Ora tutti gli attori devono correre l'ultimo miglio, ma la palla è nel campo della Grecia perché faccia i passi necessari. The ball lies squarely in the camp of the Greek government to take the necessary steps. I don't want to speculate. Non voglio fare supposizioni o speculazioni. Non credo che servirebbe a qualcosa fare speculazioni su ciò che potrebbe accadere. Ma certamente una buona ragione per non fare supposizioni è che entreremmo in un territorio inesplorato, nel quale però possiamo dire di avere tutti gli strumenti per affrontare la situazione nel modo migliore che possiamo. Are you with me? Are you with me? Oh. sembra abbastanza esplicito il ragionamento di Mario Draghi. Il portavoce della Commissione Europea, Margaritis Schinas, ha detto, insomma, riferendosi a Juncker, presidente, siamo tutti delusi dall'ultimo dall'aver fallito l'ultimo tentativo di trovare una soluzione, siamo però pronti a impegnarci 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il presidente Juncker è deluso dal fatto che, nonostante i notevoli sforzi per facilitare i progressi dei negoziati, i passi avanti non sono stati così evidenti. Tuttavia, se qualcosa di nuovo emergesse, siamo pronti a intervenire a livello di commissione. L'ufficio del presidente è aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno. Quindi, se ci fossero elementi nuovi, saremmo felici di dare il nostro contributo come mediatori nel portare avanti la trattativa. La sola scadenza che abbiamo ora è il 30 giugno, quando si conclude il programma greco di proroga degli aiuti. Il 18 giugno è in programma un Eurogruppo che avremmo preferito si tenesse con qualche progresso fatto nel fine settimana. Questo non è stato possibile e quindi queste restano le scadenze entro cui lavoriamo. Allora, grazie per averci aggiunto in collegamento all'economista professor Francesco Daveri, che insegna politica economica all'Università di Parma. Le chiedo, professore, buonasera, un minuto di pazienza. Ho il traffico e poi vorrei capire, cioè, quanto si possa tirare ancora, perché ho letto delle dichiarazioni, a mio avviso, un po' azzardate, sia di Weidmann che dell'IFO, e quanto un problema interno in Germania si stia verificando dopo il traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Daveri, tra l'altro oggi Varoufakis ha in qualche modo risposto a Draghi indirettamente, ha detto sì, l'accordo potremmo farlo in una notte, ma serve, deve starci anche Angela Merkel, escludo una Grexit, un'uscita della Grecia dall'euro come soluzione ragionevole, ma nessuno può escludere tutto, non posso escludere che una cometa impatti la Terra, e sembra aver rimesso la palla in mano ai tedeschi. Quanto andremo avanti secondo lei con questa tragicommedia, più tragica che commedia? Ma non, probabilmente nessuno lo sa, quello che però mi sembra è che anche in altre occasioni, in momenti così topici per l'Eurozona, quando la Bundesbank si mette a gridare più forte, forse è perché magari si è più vicini o segnala il fatto che poi la politica in Germania è più disponibile a un certo punto ad arrivare a un accordo. Si tratta di arrivare ad un accordo che presenti delle condizioni che sono il più vicine possibile a quelle dei creditori anziché a quelle dei greci, che poi alla fin fine secondo me non consistono tanto nelle condizioni per il surplus dell'1%, dello 0,5% per quest'anno, ma più che altro secondo me sono più importanti le cose sull'IVA e sui pensionamenti anticipati, cioè occorre qualche componente del pacchetto strutturale che si discosti un po' dai desiderata di Syriza e che quindi costerebbe politicamente a Syriza, però che insomma dia il senso ai tedeschi che i greci vogliono andare in una direzione che è un po' più simile a quella degli altri paesi europei. Tutti stanno facendo i conti con queste cose, insomma le facciano anche i greci, sono messi anche peggio degli altri, tra l'altro. Ecco, questa è un po' la cosa, non credo siano appesi ai decimi di punto percentuale. Quindi lei dice non è tanto portare l'avanzo primario, la differenza tra quanto la Grecia incassa e quanto spende prima di pagare gli interessi sul debito, al 3% o farlo scendere all'1% come chiedeva anche Tsipras, ma è più dare l'idea che ti metti in testa che alcune riforme strutturali devi farle come le fanno gli altri paesi, le pensioni, l'età del pensionamento da un lato e l'IVA dall'altro. A me, ad alcuni è sembrato che quasi quasi lei citava la Bundesbank, che Weidmann in quella sua dichiarazione sale la probabilità che non si trovi l'accordo, fosse quasi contento, siamo troppo cattivi? Ma non so, non ho idea, no, nel senso io rimango convinto che si arriverà a un accordo dell'ultima ora, più che altro perché quando Draghi dice che saremmo in un territorio inesplorato, intende dire che un conto è far fallire Lehman Brothers. Lehman Brothers è un'azienda, e invece mandare, cioè fare in modo che un paese se ne vada da un accordo in Europa, poi non si sa ancora bene se questo vorrebbe dire che la Grecia se ne deve andare anche dall'Unione Europea, perché se andrebbe tutto per avvocati, insomma. E quindi secondo me sarebbe questo il vero territorio inesplorato, significa attizzare conflitti che andrebbero ben al di là dell'economico, risentimenti. Quindi si tratta di trovare un modo per riuscire a tenere dentro un paese, non il suo governo, non strettamente il suo governo, ma è un paese, perché questo è il punto, con un accordo che però sia anche nel, insomma, nell'interesse di una, di uno stare tutti insieme dentro una comunità. Ecco, questa è un po' la cosa, e non so se... se si riuscirà a farlo, però credo che ci siano forti interessi per farlo. Poi alla fin fine, all'ultimo minuto, confido che poi si arrivi a questo, nonostante un po' quello che, insomma, che è successo anche nel fine settimana. Sì, esatto. Ecco, personalmente, visto che è il tema anche della prima ora, il fatto che l'Italia in questa vicenda greca abbia pesato pochissimo, nulla, diciamo, l'ultimo incontro fu è stato quello Hollande-Merkel, che la Germania pesasse di più lo sapevano anche i sassi, sbagliando a nostro avviso tutta la strategia e anche la tattica degli ultimi 5 anni, ma era fuori discussione. Lei condivide questa critica, insomma, un'Italia che non riesce mai a far sentire il suo peso anche sulle vicende di politica economica a livello europeo? Non parlo poi dell'Ucraina, non parlo del tetto del 3% e di quello che sta capitando con i migranti o clandestini, come li vogliamo chiamare, alle nostre frontiere. Prego. Sì, ma ho sentito la giustificazione che ha dato il primo ministro, qualche, non so se in un'intervista oppure per iscritto, adesso non ricordo, che è una specie, sarebbe una specie di difesa del metodo comunitario contro il metodo intergovernativo, traduco, cioè che l'Italia non si mette a fare questi caminetti con Francia e Germania perché noi siamo più europeisti dei tedeschi e dei francesi. È possibile che sia così, però indubbiamente io condivido quello che diceva lei prima, cioè che fin dall'inizio la scelta del puntare su Miss PESC, insomma, sulla posizione agli esteri, dato che anche quello che c'era prima di Federica Mogherini contava poi alla fin fine veramente poco, non so, se mi sembra che sia stata una scelta un po' infelice, era meglio puntare su qualche cosa di più solido, soprattutto per le nostre aziende. Insomma, o l'industria, o il commissario all'industria e all'agricoltura, o alla concorrenza, ci mancherebbe, insomma, ci sono dei commissari che hanno un grosso peso su questo, ma lo dicemmo in tempi non sospetti, tutti pensavano che tirassimo la volata per De Castro, ma figurati, cioè semplicemente ci sembrava che sarebbe stata una casella inutile. Devo dire che così sta avvenendo, fa bene lei a ricordare, per onestà intellettuale, che anche Lady Ashton contava come il 2 di picche prima, e la Mogherini conta come il 2 di picche adesso, se c'è faccia sentire la sua voce. Ma mi sembra che anche nella vicenda delle quote dei migranti siamo veramente al vuoto pneumatico da questo punto di vista, quindi però prendiamo atto e raccogliamo l'opinione di Francesco Daveri. Speriamo che lei abbia ragione, che alla fine l'accordo si farà, e speriamo di non occuparci più di sta Grecia. Devo dire che la settimana è ripartita male da ogni punto di vista: borsa, tensioni con la Francia, Grecia, e vabbè, tanto domani è martedì e noi andremo avanti. Grazie a Francesco Daveri. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo appunto domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.